sono convinto, come diceva Molteto, che Obama è nettamente più forte. Questo dato degli 82-84 milioni di dollari che ha raccolto nel primo trimestre sono, diciamo, la controprova. D'altra parte però la partita, diciamo, sul merito è stata vinta sul terreno dei repubblicani, sul terreno dei Tea Parties, perché Obama, nella proposta di Obama rifiutata dai repubblicani, c'è il taglio delle pensioni, dell'assistenza previdenziale e anche dell'assistenza sanitaria ai più anziani. Quindi, diciamo, l'agenda è stata creata dai Tea Parties e su questo terreno Obama è sceso. Il punto su cui non si mettono d'accordo, quindi, non è tanto la filosofia politica intorno alla riduzione delle spese, ma è quello dell'innalzamento delle tasse. I repubblicani sono contrari, Obama ovviamente è favorevole, però Obama ha una carta di riserva, perché può fare benissimo un accordo con i repubblicani senza alzare le tasse, e per un semplice motivo: perché il 1° gennaio 2013 scadono i tagli fiscali di Bush, che sono stati reiterati dal congresso e quindi firmati anche da Obama recentemente, e quindi l'aumento delle tasse comunque è già in automatico, in programma. Certo. Sì.